Vuol dire da una parte che la redazione della Zanzara sono quattro ragazzini che giocano a ping pong in redazione quando non c'è Cruciani, quando arriva lui si unisce pure lui a giocare e passano la giornata ad ascoltare così Radio Padania. La Zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Crucia, sai bene che quando c'è la Zanzara io opero con le cuffiette. Il mio aiuto mi dice: scusi professore, ma sta ascoltando la musica? E io rispondo: caro inferiore, sto ascoltando la Zanzara. Ovazione in sala operatoria. Vogliamo l'altoparlante. Siamo al top. Sindaco Parenzo, comunque il paziente sta bene. Ciao! Dopo mesi di attesa, dopo mesi di trepidante attesa da parte dei mercati finanziari, da parte della borsa, da parte del mondo politico intero, finalmente oggi una notizia che sconvolgerà non solo i mercati, ma la politica italiana tutta. Romano Prodi voterà sì al referendum. Bravo, esatto. E un'orda intera di sti cazzi rispose all'improvviso. Ma non è vero. Ma dai, dai, su. Sento il dovere di comunicare, certo, che voterò sì al referendum. Con calma, tranquillità, anche quasi in silenzio. Chi se ne frega? Senza le risse di questa trasmissione, no, che scusi, si chiama Zanzara. Però, dove Prodi, c'è quello che cantava Kikikokoko. Sì, mi scusi Prodi, ma... però no, perché ci ha messo così perché ci ha messo così tanto? Perché ci ha messo così tanto? Perché senza polemiche volevo fare. Ho detto che voto sì, ma senza polemiche, in silenzio, con calma, tranquilli boccia, con calma, silenzio. Berlusconi scatenato da Floris ieri sera. Fantastico. Scatenato da Floris. Ma soprattutto fantastico con Crozza al Berlusconi. Sì, Berlusconi, sì, mi sono venuti i muscoli, le signore possono sentire. Beh. Senti. Sta bene, sì, tutto a posto. Sì, grazie, grazie molte, mi sento a posto, faccio. Mi sono venuti anche i muscoli, quindi. Poi alle signore posso farli sentire. Signor Berlusca, sempre numero uno, sempre numero uno, prenderei Renzi a Mediaset. Renzi all'inizio mi è stato simpatico, poi mi ha deluso, molto deluso. Comunque come affabulatore, come intrattenitore è veramente il più bravo. Quindi non lo comprerei per la squadra di calcio, ma sicuramente lo inviterei a entrare in Mediaset come annunciatore. In realtà, diciamola tutta, al di là delle cose politiche formali, Berlusconi ama Renzi. E ti faccio sentire anche un lapsus che però è molto indicativo, caro, sì, Divino, molto senti, indicativo. Senti. Senti, senti. E nel programma che noi abbiamo già guardato con Matteo Renzi e con Giorgio Meloni è previsto che questo Matteo programma Salvini, possa proprio non le viene. Con Matteo Salvini e con Giorgio Meloni. Come vede Renzi, tutti i giorni in televisione ti prende la testa. E la televisione è così. Ti prende la testa. C'è chi la usa per far politica. E quindi uno capita magari anche a voi col vostro nipotino di dirgli: Renzi, vieni qua. Renzi, non fare quest'altro. Porta questo. cioè, no, ma la cosa paradossale è un genio. No, ma sì, è un genio assoluto. Però la cosa paradossale è che non si può ancora credere al fatto che lui accusa Renzi di usare la televisione. Cioè Berlusconi accusa Renzi di utilizzare la televisione per fare politica. Ma siamo veramente alla follia. Detto da lui, appunto, certo. Certo, che è detto da Berlusconi. È chiaro che usa la televisione Renzi, ma in maniera super spregiudicata è lui da che sempre. Ha fatto. Ma Berlusconi è nato con la televisione, Berlusca. Su, ragazzi, ma stiamo scherzando, stiamo dicendo sul serio. Berlusconi è un grande battutista e soprattutto uno che quando racconta di sé, eccetera, è eccezionale. Quando parla di politica ormai siamo veramente allo zero, a mio parere, detto con tutto rispetto per autorità politiche, civili e militari di questo paese. A New York volevano tutti i selfie con me. Io sono disperato perché sono andato a New York, sono stato in clinica molto tempo, poi sono andato in giro per le strade di New York. Non ho potuto andare in giro perché mi riconoscevano tutti e volevano tutti farmi delle fotografie, un selfie. E io dicevo, ma non sono Renzi, ma non sono Renzi. E tutti volevano lo stesso farmi la fotografia. Allora ragazzi, Crozza ed Elkan, poi pure Berlusconi, Crozza ed Elkan. Cominciano ad arrestarci i nostri connazionali all'estero. Hanno iniziato con Lapo Elkan, uno degli industriali italiani più importanti nel settore strategico delle figure di merda internazionali. Ammassato più, no? Questa è buona però, industriale delle figure di merda. Ora, quello che mi affascina di questa storia, Giova, è pensare a uno in un hotel con un trans infoiato nel letto, cocaina ovunque, no? Un tappeto di bottiglie vuote per terra, senza più una lira, che a un certo punto si sblocca e dice: credo di sapere come uscirne in modo dignitoso. Cioè, questa... Allora... Feltri dice che lui ha fatto anche di peggio. Punto interrogativo. Cosa avrà fatto di ma peggio? Ma che vuol dire di peggio? Feltrone, di peggio rispetto a... rispetto all'Apo, i transessuali, la cocaina. Ma cosa ha fatto l'Apo? Dai, su, lasciatelo tranquillo. Ma ha fatto quello che ha fatto, ma punto. Ha fatto, chi lo giudica? Ancora, ma tutti a giudicare, a scrivere fiumi di inchiostro. Ma chi giudica? Su questo ragazzo. Meno male, dai, meno male. Ma che roba è? Meno ma male che si scrive in libertà. Alzato, l'Apo, ma chi l'Apo ditino? Ha fatto? Quale ditino? Figuriamoci. L'Apo, ma chi se ne frega? È un ragazzo, un imprenditore, avrà diritto di fare la sera dopo una giornata imprenditore. Di imprenditore, certo, è imprenditore. Imprenditore con i soldi, con i soldi a bizzeffe è facile, ma eccolo dai, col ditino alzato. Ma no, lui. Ma imprenditore, me lo stai dipingendo come un imprenditore. Non è un reato, non è che è nato ricchi. Dal nulla, non è non che è nato dal nulla. È una colpa essere nati no, ricchi. No, per carità. Non è una colpa, su, dai, basta con ste cazzate populiste, basta. Tenta di fare l'imprenditore. Imprenditore perché ha fatto delle cose di grandissimo successo. Tenta di fare l'imprenditore. Tenta. Tutt'altro, ha fatto delle cose di grandissimo successo. Poi è eccentrico, è l'Apo, è quello che è andato a New York. È uno sfruttatore, dovresti dire. Dovresti dire che è uno sfruttatore. Dovresti dire che è uno sfruttatore di prostitute. Come lo dici nei poveracci che vanno con la macchina sulla Samaria? Ma quelle si sono divertite con lui. Anzi, è lui che è vittima. Che ne sai, di che non era sfruttata. È lui che qua. È vittima di quella gente lì, sì, che frequenta. Vabbè. Lui Feltri, è la vittima in questo caso. Vergognati, Feltri. Lui è la vittima. Ti contraddici continuamente, Feltri. Che lui vada a trans, chi se ne frega, fa quello che vuole. Io forse ho fatto anche di peggio, quindi che cosa vuol dire? No, niente. No, se poi ha voglia no. Di, se ha voglia di farsi di cocaina, faccia quello che vuole, non è un ragazzo, è un adulto, e quindi che problema c'è? Sono scelte personali, magari sbagliate, ma questo è un altro discorso. L'Apo non è protetto come nonne, questo è vero. Non c'è la protezione, sì, no, anche perché non ha lo stesso ruolo, d'altra parte, e poi perché no, all'epoca non c'era internet, non c'era il web, non c'era quello che c'è adesso, ragazzi, era molto più facile nascondere le cose, il potere controllava molto di più, riusciva a controllare. Che ne dicono questi? Prima si stava peggio, è inutile che dite cazzate, il potere controllava molte più cose, dai, su. Dopodiché i suoi vizietti, per l'amor di Dio, non devono suscitare neanche troppo scalpore, anche perché l'Apo non è protetto come lo era il nonno, per esempio, che pure aveva delle abitudini poco ortodosse, se vogliamo usare questo termine, ma godeva di protezioni notevoli che non lo hanno mai portato fino allo scandalo. Mughini, gli gli ubriachi in macchina fanno più male di lapo. Non c'è dubbio. Capisci che l'ubriaco in macchina, eccetera, uccide non so quante persone. Se l'auto sbanda, l'apo da tanti anni fa del male a se stesso. Vabbè ragazzi, però che cazzo c'entra? È normale, ma è normale che nessuno lo sta dipingendo come un criminale. Ma come, ma che no? Dite? Ma pagine di giornali, giudizi, ma che c'entra, giudizi? Ma qualche che giudizi, imbecille che su internet ha scritto pensate agli operai. Ma che cosa c'entra quello? A me lo dite pensate agli operai, ma che significa? Quel signore è un ragazzo che è andato lì in America, piace o non piace, è andato lì a lavorare, ha fatto delle giornate lavoro. La sera si è fatto un festino con della cocaina e un transessuale. Chi se ne frega? Ma potrà fare quello che gli e ha inscenato un finto sequestro. È un uomo politico? No. Ha responsabilità politiche? No. Decide della tua vita? No, no. È indifferente quello che c'entra? Fa la sera. Ma non è indifferente. Se si corica con un col cane, marchio dell'Italia, o si corica dai con Cruciani, a me non me ne frega niente, perché io giudico l'apo per le sue cravatte. Ma quale il male, in Italy, dai. Siete di un moralismo. Io moralismo, io ma per me può fare il cazzo che vuole. Col dito alzato, l'apo ha detto, l'apo ha fatto. Ma andate a quel paese e lasciatelo in pace, poverino. Più Natania, meno Parenzo. Più Natania, meno Parenzo. Traffico. Eolo, internet ultraveloce per il business. Scopri l'offerta su eolo.it. Vi presenta La Zanzara. Zanzarosi, contattateci all'800 24 0024 o via WhatsApp al 393 71 71 701. E cosa succede, Parenzo, intanto nel mondo rom, nel mondo dei campi rom, che succede, nel mondo magico dei campi che rom? Che succede? Senti questa specie di rapper, di giovane rapper, vedi, in un campo rom. Vedi, nascono anche dei talenti in questi posti. Senti. Io spacco di finestra e in casa andrò a rubare. Prendo gioiello, oro, televisore. Se arriva polizia io scappo di balcone. Dove vi roulot? Io vengo di Romania. Sto dentro un campo in mezzo a porcheria. Io faccio finto zoppo in metropolitana, ma vendo droghe e armi. Oppure deputato. Sono uno zingaro, tu non rompi cazzo. Estate, molto attenti, io faccio appartamenti. Amico, ma chi è? Questa striscia la notizia, ti giuro. Eh? A striscia la notizia, ma è vero, eh? È un tizio rom dentro un hanno campo. Hanno bisogno di un capo della comunicazione, questi rom, mi pare. Hanno un deficit di comunicazione proprio. State molto attenti, io faccio appartamenti. Amico mio, già sei attaccato da tutti, te metti a fare rap sul furto degli appartamenti. Ma te che ti rendi conto? Ma ti rendi conto? Però hai ragione tu, ma alla fine. Dove altro lo trovi tu? Un ladro, ladro che confessa, sì, un ladro. Ammette, sì. Quando un ladro, quando lo intervisti, la più grande canaglia dice: no, no, no, io non rubo, ma figurati, non sì, ho rubato. Anche col bottino in mano, no? Sì, anche... dice: no, mia, no, non è mia questa roba, che è capitata qui per caso. Dice: ma come, sei uscito da quella casa, l'hai svaleggiata? No, no, no, no, vai in un campo rom, qualunque persona ti dice: no, certo che ruba, ruba pa mangiare. Ma scusami, senti, ragazzi, senti quest'altro, su. Senti quest'altro, senti. Noi a Romania, se andiamo a Romania, non possiamo vivere, perché a Romania non ce l'abbiamo lavoro, non ce ma l'abbiamo qua niente. Ma e qua avete lavoro? Qua lavoro, vedi, andiamo a rubare qualcosa, facciamo qualcosa, ecco, vedi. Un po' si va a rubare anche. Lo sai che a zingheri rubano. Vabbè. Se noi rubiamo qualcosa, se noi facciamo queste cose, noi non possiamo vivere. Ma nel campo quanti rubano? Tanti? No. Tutti questi agenti che abitano di qua rubano, io ti dico la verità. È incredibile. È veramente incredibile. Non ho tutti rubano. Ruba. Sì. Tutti rubano. Se andiamo in Romania non lavoro, veniamo qua a rubare. Tutti rubano. È vero che sono dei rom che chi confessano. Quinta colonna? No, c'era già quinta no, colonna qui, pronta. Quindi a proposito no, era striscia la notizia dalla stavolta, vostra parte. Stavolta dalla striscia dalla vostra parte. Con chi stai tu? Dalla vostra parte. Che vediamo cosa che è successo a Cerignola. Ladri, assassini, immigrati. Va bene, vediamo cosa è successo a Varese. Ladri, assassini. Cambia il set, la frase è sempre la stessa. Dalla vostra, anche il titolo dalla vostra parte. Dalla contro parte contro i negri, no? Ma dalla, parte dalla vostra chi? Parte contro dalla i negri. Sottotesto parte. Contro i negri. Sì, qualunque roba cata, 11 settembre, qualunque notizia ci sia, negri, sempre. Aspetta, ti faccio sentire Poletti è andato, è andato a Torino in un posto costruito per le Olimpiadi e adesso invaso dagli extracomunitari. No, ma è stupendo, senti. Extracomunitari a Torino illegalmente hanno occupato un palazzo delle Olimpiadi. Prima loro portano a mangiare, quando noi è venuto qua. Spiegami sto casino che avete fatto. Che casino? Il casino che avete fatto. Che casino? Che la gente si è spaventata. Dai. Che casino? Chi fa il casino? Chi è mezzo alla strada? Chi è? Se voi siete qua perché avete realmente bisogno, non c'è problema, noi vi accogliamo. Però se iniziate a delinquere, cosa che è accaduta ed è denunciata, se iniziate ad approfittarvi della nostra pazienza, noi abbiamo le scatole piene. Rispondi. Delinquente? Chi è delinquente? Chi è delinquente? Delinquente! No. Chi è delinquente? Delinquente, fate casino. No, chi ha fatto casino? È straordinario. Delinquente, Poletti, rispondi. Poletti, delinquente, il giornalismo delinquente. È uno sassone, capito? Allora, rispondi, cosa sei venuto qua a fare? Casino! Ma ti rendi conto? Ma è roba incredibile, Polettone. Stupendo, numero uno. Polettone noi nazionale. Portiamo i soldi nel quartiere, dice quest'altro. Senti. Poletti, dai. No, mica Poletti, sempre con no, Poletti. No, vabbè lo stesso, dai. Dai. Noi porta soldi qua stasuno. Porti i soldi qua? Sì, come sempre questa negozio, noi comprare roba qua. Anche chi è non porta soldi? No, noi non compra qualcosa qua. Noi porta soldi qua, sì o no? Questo è un po' esagerato, eh? Noi portiamo i soldi nel quartiere occupato lì. Sì, vabbè, hanno appartamenti abusivi. Ma non c'era nessuno in quegli appartamenti. Non erano appartamenti, sono locali occupati abusivamente. Vabbè, glieli dia al comune in gestione agli immigrati. Li renda partecipi della no, perché ridi? Li renda partecipi, cioè li renda responsabili. Noi portare soldi nel quartiere. Ma è giusto, portare, adesso che ti spiego. Soldi, bisogna dai. Creare un grande patto di cittadinanza, si chiama. E lui ride. Ma perché un patto di cittadinanza? Bisogna cacciarli quando occupano i posti, cacciarli quando occupano i posti. Dalla vostra parte, dalla vostra parte. Ma no, dalla vostra parte. Ma vai via, dai. Iuri da Parma, Iuri. Ma che Iuri, Iuri, vai. Io conoscevo Iuri Maria Prado. Chi è? Buonasera, Giuseppe. Dai, veloce, Iuri, dai, dimmi. Sì, molto veloce. Volevo riprendere quello che ha detto ieri Parenzo sull'ottimo Lapo. Prometto che solitamente i commenti di Parenzo non mi trovano in disaccordo, ma ieri ha detto una cazzata pazzesca. Lui si ostina a difendere Lapo dicendo che Lapo non è un personaggio pubblico. Certo, non ha responsabilità politiche. Con i soldi della famiglia Agnelli può fare quello che vuole. Con i suoi l'unica anche. Cosa che credo che la difesa di Parenzo sia leggermente tendenziosa. Non vorrei perché? Che il fatto della perché? Confessione religiosa perché è ebreo, di Parenzo dici? Siccome non condizioni nel difendere il cosiddetto ottimo Lapo. Cioè tu dici lo difende che in quanto non ebreo. Guarda che Lapo non è di religione ebraica, la informo di questo. Ma, non ma la famiglia sì, signor Parenzo. Ma quale famiglia? Non mi risulta che la famiglia Agnelli sia ebrea, dai. Sì, ma comunque non c'entra ma non c'è a New York le ha fatte, è nata prima, a New York ma no, comunque controlli meglio ma non meglio me ne frega nulla quello, ve l'assicuro che non è di religione ebraica, ma non me ne frega nulla di quello. Mi stanno sulle palle i sepolcri imbiancati che oggi alzano il ditino e criticano Lapo semplicemente perché è un ragazzo eccentrico che avrà fatto mille sbagli nella vita sua, ma ha danneggiato la sua vita, non quella degli altri. Non è un decisore pubblico, non ha nessun ruolo pubblico. Secondo il tuo criterio, secondo il tuo ragionamento, uno sfruttatore di prostitute. Uno sfruttatore di prostitute. Ma quale prostitute? E anche sfruttatore della criminalità. Aumenta la criminalità con la droga, secondo il tuo ragionamento. Infatti sono per la legalizzazione delle droghe. Nicola da Monaco di Baviera dopo il giornale. Fermi, fermo. Sempre stato a favore della legalizzazione. Sì, io vedo molto negativo. Roma-Napoli, in auto con un'amica, io, lei e il sistema digital radio. Accendiamo la radio? Hai detto radio? Te la faccio ascoltare in digital. Cioè? Sulla mia auto puoi ascoltare i programmi che ami di più con il suono perfetto. Grazie alla Digital Radio. Ce l'ho anche a casa. Tu no? Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Il segnale orario vi è offerto da... Stufe e caminetti. La Nordica Extra Flame. Il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Scegli Pantera col TH, scegli l'IRP di Infracomitalia per competere nel mondo. Vi presenta La Zanzara. We're ready. che io spacco di finestra e in casa andrò a rubare. Prendo gioiello, oro, televisore. Se arriva polizia, io scappo di balcone. Dove vi roulot? Io vengo di Romania. Sto dentro un campo, in mezzo a porcheria. Io faccio finto zoppo, in metropolitana. Ma vendo droghe e armi, oppure deputato. Sono uno zingaro, tu non rompi, cazzo. Estate, molto attenti, io faccio appartamenti. Ma secondo me questo è inventato, dai, su, è un'invenzione di Striscia la Notizia, non sì, può essere non vero, posso. Un rom che fa del rap fosse così, dentro un campo con... rom, dai. No, fosse vero dovrebbe concorrere a Sanremo comunque. Sì, a Sanremo, in fosse galera, vero. No, a Sanremo. Sanremo, cioè, Sanremo, dai, Sanremo. In galera uno che fa l'elogio del furto a Sanremo, l'elogio del furto a Sanremo. A San Vittore più che a Sanremo. Appunto, a San Vittore. Io dico a Sanremo invece. Io dico a San Vittore. Io dico a Sanremo. Dare una chance a tutti bisogna. Sì, la chance a tutti. Una chance a tutti. Oh, voci da Capalbio, le voci da Capalbio su, bene. Sugli extracomunitari, sugli immigrati. Senti, i capalbiesi come sono accoglienti, i capalbiesi della sinistra radical chic, come sono accoglienti nei confronti degli immigrati a Capalbio, non li vogliono in mezzo alle ville, in mezzo al mare, vogliono il panorama completamente sgombero. Ma come sei completamente sciocco. Aperto, non vogliono intralci, barricate, gente che si incazza, come succede magari in piccoli centri dove li mettono negli ostelli, dove si vanno a radunare magari i vecchietti o nei palazzi adesso. Di Roma, eccetera. Capalbio non vogliono che le colline che degradano lentamente verso il mare siano deturpate magari da quattro scalmanati che protestano per il vitto, per l'alloggio, per il riso. Non vogliono a Capalbio, non ce li vogliono i negri. Io sono affitto come loro, me ne dassero a me le ville. Se ve li mandano lo stesso, io non credo che arrivino. Non credo, io penso che la popolazione si rivolta. Barricate pure qua. Secondo me sì. Secondo me sì. Gli extracomunitari ce l'abbiamo a Capalbio. Ha ragione il dottor Giordano quando dice che tutti i politici che sono qua sono extracomunitari per noi, perché quando vengono in questo paese non è che poi diano dei grandi guadagni. Perché fanno la spesa a Roma, da dove, e qui non ci comprano niente. Forse questo territorio parecchi di loro lo hanno distrutto, l'unità perché non li ha più come una volta. 50 persone in una piccola struttura, un piccolo paese, crea dei problemi di ordine pubblico, perché prima di tutto non sappiamo il loro status sanitario, non sappiamo se hanno qualche malattia o qualcosa, perché non vengono fatti nessun controllo, per lo più. Che cosa noi sappiamo di queste persone? Hanno il suo curriculum vitae, il casellino allora, giudiziario. Vogliono sapere. Gasparri, eccolo lì, Gasparri. Vogliono sapere se hanno le malattie. Ma vogliono sapere se si portano dietro qualche cosa. Ma quali malattie? Gli abitanti di Capalbio. Infatti sbagliano anche gli abitanti di Capalbio, ovvio. Michele da Lodi, vai Michele. Senti, per Lapo. Dimmi. Purtroppo sono d'accordo con Parenzo per la prima volta dopo anni che mi seguo. Vedi, meno male. Nel senso che non puoi dire tu che rappresenta l'Italia. Ho detto che lui si presenta così, però. Ma non è vero. Ho detto che è lui che si presenta così, amico mio. In Made in Italy, la bandiera dell'Italia dappertutto. Ma che vuol dire? Anzi, va ringraziato perché. Va ringraziato. Lui rappresenta se stesso e la sua famiglia al limite. Ma meno quello sempre, ognuno di noi. Rappresenta se stesso e il suo marchio. Ma chi se ne. Ma cosa dite? Non esiste sta roba. Ma come meraviglio di te, dai. No, ragazzi, io non ho detto che lui rappresenta l'Italia. L'hai ho detto, detto che lui detto. Si presenta così. Ma certo, ma figurati se credo che Lapo rappresenta l'Italia. Ma di che stai parlando? Ma dai, su. Perché poi voglio dire proprio ho detto in America. Che uno si presenta Lapo si presenta come uno dei simboli del Made in Italy, la parola Italia, la parola il tricolore ce lo mette da tutte le parti delle sue produzioni, delle sue attività eccetera eccetera. L'immagine che c'è oggi, i giornali americani dicono play Italian Playboy, cioè non è che dicono Italian, ma quando il senatore Kennedy è andato a finire lì in un lago e aveva parliamo di Ted Kennedy. Ma che c'entra questo? Scusa. Come che c'entra? c'entra la Gioia? Non è che noi abbiamo pensato che America di merda rappresentava lui, se stesso, la sua famiglia e basta, cioè non c'entra niente. Vabbè. Ma non è che dobbiamo stare lì a pensare. Alda Torino, Alda Torino, vai. Sono qua, una buona serata. Senta, dimmi, io volevo fare una piccola precisione. A me questa notizia non mi ha stupito per niente. Precisazione, non precisione. Sono tutti quanti drogati. Agnelli era drogato, non mi ha stupito per niente questa notizia. Agnelli era drogato, sì, si è sempre detto, non è che non ci sono le prove materiali, ma come veramente, dire, no? No, veramente risulta che comunque che Agnelli era drogato, era proprio usava la cocaina, quindi in questa famiglia la cocaina c'è sempre. Vabbè, stata, ma infatti quindi... nessuno si stupisce dalla cocaina, Alda, cioè... Allora dunque che vuol dire? Il fatto che l'ape è un po' ingenuo, magari un po' più appariscente, poi voglio dire un'ultima cosa. E poi che vuol dire? Che nel mondo della politica c'è tanta droga. Ma che c'entra? Ma cosa mamma c'entra? No, ma come c'entra, c'è in tutti i mondi? Come c'è dappertutto, Alda, dappertutto? Appunto, sì, ma e dunque anche tu ti sei fatta la cocaina, sicuramente. No, io assolutamente non uso stupefacenti perché non mi interessa. Anche tu sicuramente ti sei fatta qualche droga, sicuramente. Io un acido, un'anfetamina, qualche cosa. Io soltanto lo sport amo. A me piace correre e fare ginnastica. Questa è la mia droga, lo sport. Bah. Ho molti dubbi. Ma lei ha dubbi sulla persona che non conosce, ma si rende conto ma di quello dubbi, che ho dubbi, ho dubbi, ho gravi dubbi. Quando uno dice io non mi dire così all'ascoltatrice. Lei è malato, lei è malato. Ma è malato, esatto. Sì, è malato, brava. Ma cara. È malato, mi no, studi. No, assolutamente malato, brava. Lei è malato. Io faccio sempre ginnastica 3 ore al giorno, mi piace fare la ginnastica perché ha. Ma perché c'è quelli che fanno ginnastica non si fanno pure di cocaina, pure l'apo è perfetto. Pure l'apo è uno perfetto fisicamente, pure s'ammazza. Ma io non sto criticando l'apo, è che l'apo è un ragazzo appariscente, un ragazzo un po' deboluccio, si lascia andare, tutto qui, infatti ha ragione Parenzo. È vittima della famiglia, dell'educazione. Ma no, è di vittima famiglia. Di se stesso. Che famiglia? È vittima di Vabbè, se stesso, Alda, di com'è, ciao, poverino. Ciao. Okay, Nicola, Monaco di Baviera, vai Nicola. Gente da Monaco, allora, ma cosa Parenzo, ascolta la zanzara? Se mai ce ne fosse bisogno, hai dato la riprova che sei un doppio giochista. Doppio giochista? Ma lei, non ho capito, ma lei è andato a Monaco di Baviera, quindi sarebbe una fuga di cervelli, teoricamente. Lavora a Monaco di Baviera, e sono cazzi suoi. La zanzara dai. Per dire sta stronzata? Io produco, fatturo. Ma che produce? Che produce lei? Che produce idiozia produce? Che cosa allora, produce? Hai dato la riprova, dimmi una cosa, dai. Forza, dimmi. Quelli là, quei poveracci che sono disperati tanto e quanto... Il clan che vanno a mignotte. Ma chi? E tu li vuoi sputtanare, vuoi mandare le lettere e le cose. Ma scusi, ma lei non ha capito niente allora. Perché non può essere sputtanato. Ma lei allora non ha capito niente. Il fatto che lei non capisca, però non mi stupisce per nulla, sa? Cioè non è una novità il fatto che lei non capisca. Argomenta invece di insultare. Che ma infatti posso argomentare? Lecchino sarà lei. Ma hai già argomentato, eccetera. Allora lui dice che tu hai due pesi e due misure, un po' è vero, perché tu assolvi l'apo e condanni il povero mignottaro, il povero puttaniere che va con donne sfruttate. Ma perché quella che ne sai che non è sfruttata la transessuale di l'apo? Che ne sai? Come tu sai meglio di me, come sai? Non è, c'è un giro internazionale di mignotte che tu manco conosci. C'è un giro internazionale di escort che evidentemente viaggiano senza ma alcun tipo di magnaccia. Ma non è vero, magari sono governate da un magnaccia in queste. In quei circuiti là, allora, come tu ma se sai, non lo conosci nemmeno che non ci sei mai andato, come fai a saperlo? No, ma però allora, l'inchiesta l'abbiamo letto tutti quanti, no? La differenza che c'è tra la prostituta... Ma che stai a dì? Ah, quindi non c'è differenza tra la prostituta da strada e... Ma può essere autonoma, Ma paradossalmente, lui con sua madre. Ma che c'entra la madre di questo qua? Ma c'entra anche la madre, fidati. C'entra anche lei, fidati di me. Fidati. Appunto. Chissà dove sta. Comunque, dai, lo sappiamo tutti dove sta, ma questo non ci interessa. Ma come? Poi dimmi un'altra cosa, di che religione è padre di Elkan? Ebreo, sempre. E quindi? E te di che religione vabbè, sei? Adesso questo non c'è. Poi Elkan, guarda quanti milioni di followers c'ha su Instagram. E che cosa vuol dire? L'ha deciso lui di essere un personaggio pubblico. E per questo e dunque uno se ne parla, e dunque se ne parla, il moralismo, ma scusa, e per questo merita il moralismo di Nicola da Monaco, cioè, di allora, Baviera, ma tu che vorrebbe, ma vorrebbe fare la vita di Elkan, no, ma non avendo un cent, è invidioso di Elkan. Ragazzi, però scusa, tu non reputi normale tante cose. Allora tu invece abbiamo capito che reputa normale se uno è la poeca, che uno va a mignotte con i transessuali, io sono il primo che ti dice che si riempie di cocaina e di marijuana. Ma sono il primo che ti aspetta in scena si inventa un sequestro chiedendo i soldi alla sua famiglia. Ma di che parte? Ma è chiaro, dovresti che dire follia. Che è il contrario della tua vita. Ma è ovvio che. Ma è talmente, è talmente il contrario della mia vita che però in me non scatta il revanchismo verso quello nato ricco, ricchissimo, che fa una vita folle. Non mi scatta questa roba. Fermo mi scatta lì, un fermo. Po' di tenerezza nei confronti di un tenerezza, so ma cazzi sì, tuoi. Io non ho nessuna tenerezza. Lo considero un bravissimo ragazzo che fa i cazzi suoi. Dopodiché se ne parla, si ride ed una è normale. Che si rida, è normale considero. Che si rida una perché si chiama Lapo Elkan e lui lo sa benissimo che la gente ride, si diverte sulle sue cazzate, ride, si diverte, lo piglia per il culo, lo massacrano online, lo massacrano in rete, lo massacrano sui giornali ed è giusto ed è inevitabile che sia così perché ti chiami Lapo Elkan. Oh, però la Boldrini dovrebbe essere contenta, perché tutti gli insulti erano perfettamente declinati al femminile. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da San Martino di Castrozza, Passorolle, spettacolo e avventura tra le Dolomiti. La Zanzara. Qualche giorno fa, sceso dal mio 40, ho incontrato il divino Telma. Preso da una folgorazione ascetica, mi sono inginocchiato e ho detto «Salve, divino!». E lui mi ha detto «Grazie, adepto, ma non davanti a tutti!». Ma di fronte alle divinità non bisogna inginocchiarsi? Boh, il mondo sta proprio cambiando. Allora ragazzi, io non ce la faccio più con questa notizia. Grazie, vi benediciamo, vi salutiamo tutti quanti, amate pecorelle. Cretino. Ragazzi, io non ce la faccio la più. La situazione sul referendum è alquanto complessa perché il puffo Renzi si gioca tutto in questa tornata elettorale. Lo sapevamo, il duce puffo. Il 4 si vota per il sì e per il no. E da quel risultato scaturirà un'Italia nuova. Se vince il sì in un modo, se vince il no in un altro. E c'è quindi? Ragazzi, comunque. Ma si può essere più idio? Rimetti quella musichetta maledetta. Quella... No, aspetta, se noi aspetta. Diciamo di, noi diciamo vino. Di vino. Mai al mondo verrà la fine di un cretino. Ma ti rendi conto che io lo detesto nel profondo. Comunque quell'uomo. È stato annullato tutto alla 7. Alla fine hanno annullato tutto. Ma ti credo. Hanno annullato qualsiasi ripresa. Lui ha addirittura cos'è? Gridato al complotto. Al complotto. Al complotto, certo. Sì. La 7, comunicato stampa, tappa sì. La bocca. Sì. Tappa la bocca sì, al divino Telma, sì, ti giuro. Sì. La 7 tappa non la detto. Bocca al divino Telma. Ma c'è quella musichetta mai al mondo sì, sarà dopo, la dopo, fine. Dopo. Mai dire Maya. Ma sei un cretino. No. Ma mi no. Piacerebbe andare a fare in culo. No, Mugolo, stavolta abbiamo ragione. Allora, dai. Ragazzi, la notizia è questa: nelle nuove sterline c'è grasso animale, l'ira degli animalisti, non ne posso più. Veramente ti giuro, non ne posso più. Non c'è ne posso denaro, veramente. Dentro le sterline. Sì, allora, dentro le nuove sterline, anzi, da 5 sterline, la banconota da 5 sterline, pare che ci sia. Anzi, no, è stato confermato. Vabbè, lasciate c'è del la grasso le animale. Io, non c'è del grasso animale. Vabbè, se il grasso animale. Vegetariani, vegani, animalisti incazzati come bestie, vorrebbero fare picchetti sotto la banca di pensa in Inghilterra. Pensa in Inghilterra come li trattano questi qua. Sì, sì. Contro la banca d'Inghilterra, ma vaffanculo, va. Una roba incredibile. Allora, dove andiamo, ragazzi? Carmine! Amico! Buonasera, Giuseppe. Che è successo, Carmine? Buonasera, oddio, buonasera, non lo so. Che è successo? È solito, mamma mia. Giuseppe, io sono incazzato nero, proprio nevoro con David. Perché sei incazzato? No, solito Carmine. La storia della poerca, ne ho 2-3 sere, cioè non è possibile, non è proprio possibile. Guarda, sono possibile, un basta una B. Vabbè. perché basta una B. Non mi interessa una minchia, è inutile che fa professore. Allora, tu mi no, devi ma che professore? Ho detto basta una B. Tu mi dici, sì, vabbè, ho capito che sei più bravo di me. Ho calcato. No, non è più bravo. Ho detto semplicemente. No, vabbè, ho detto solo che basta una B sola. Non... Va bene, una B, andiamo avanti. B, dai. Ma che minchia mi interessa? Ma che mi interessa cosa? A me? Parlando molto pacatamente. Ecco, pacatamente. Bravo, vediamo. Non sì, Carmine. Professor Carmine. Lui non si vuole arrabbiare. Lui. Va bene, sì, io. Sì. Io stavo per dire, sono 19:39, come mai non ha chiamato ancora un cretino? Ma infatti, ecco, allora, no, dice vabbè, sono in sciopero dei cretini? Sì, no, non continuo a offendere, tanto Carmine, bravo a ma la conoscono tutti, Carmine, dai. Allora, sì, non mi interessa la minchia che mi conoscono tutti, tu mi devi spiegare a me qual è la differenza tra l'Apo Elkan, che mi sta pure simpatico, virgolette, la differenza tra l'Apo Elkan che si fa angolare lo trans, vabbè, adesso okay? Questo, e tu possiamo... mi dici un ottimo, va bene, un ottimo lapo, e io, vabbè, non mi interessa neanche l'ottimo lapo, ma la differenza tra lui e noi che andiamo a Mignotte, pure che ci fanno scontrino in Austria, quindi la differenza qual è? Perché io sono miserabile e lui ottimo lapo. Ha ragione Karma, ha ragione Karma. Spieghiamo un po'. Ha ragione il karma, ha ragione il karma. Tu hai dipinto il karma, il karma, Carmine, alias Carmine, Carmine come Carmine, un miserabile che va a Mignotte Carmine in Austria. Chiaramente, ma no, amiche, se vai in Austria va benissimo, vai in Austria in questi bordelli legalizzati dove c'è controllo. Ma non va solo in benissimo. Austria, va anche in Italia a Mignotte. Io me la sono, me la prendo. Anche in Italia. Vabbè, io me la prendo con quelli che vanno e sfruttano la prostituzione da strada, ma dai, ancora, ma che ne sa, con le ragazze col magnaccia sfruttate dal magnaccia. Strada, non ce n'è la strada sfruttate, sono solo nere e bianche, lo fanno tutte perché gli piace. Te posso portare tutti i paragoni che vuoi. Sua salaria, un 70% dei ragazzi non è sfruttata nessuna. Tu fai lì, ci parli. Oh, io ci sono andato. Vabbè, non è che solo, quando ci parli riesci a scoprire tutto, Karma. Ci parla. Ho capito, Giuseppe, ho capito. Senti, Karma, non ho capito, ma l'ultima volta... Per me rimane il giudizio che andare a prostitute è roba da miserabili. Cioè, dopodiché... Carmine è un miserabile, secondo me. No, Carmine ma in è un generale, andare con le... pagare una donna, Karma, andare a prostitute... Karma, quando è che sei andato là? No, ferma un attimo, no. Pagare una donna, che mi vuol dire? È meglio io che la pago e dopo 5 minuti non mi ricordo manco come si chiama e mi sono sfogato che tenere una zozzona e gli devo comprare Dior, gli compro Dior Chador, ma quale Armani, Dior Chador Dior accendo la botta per fare che? Per scopare uguale? Ma io faccio uguale, pago, diciamo che servizio, signor Carmine, diciamo che ecco cosa? Fa un servizio, il suo ma pragmatismo, il suo quale ho problema? Con la panza piena, ma qual è il problema? Mi sono sfogato, mi sono sfogato, mi sono sfogato. Si è sfogato, bravo. Torna a casa poi dalla mogliettina dopo che si è sfogato. Bravo. Vabbè, Karma, ciao, ti saluto. Pierpaolo, provincia di Pesaro. Vai, che gentaglia, che gentaglia. Sì, due considerazioni. Sei veloci per lasciare poi spazio a chi più è incassato di me. Che intanto senso, per quanto riguarda l'entrata in scena di Prodi con la sua... con il suo annuncio di votare sì a questo referendum, sposterà un po' di voti. Ma che cazzo ce ne frega, se Prodi se ne esce dicendo di votare sento la responsabilità di dire al paese poteva starsene tranquillo a non rompere i coglioni. Ha detto semplicemente come vota, bisogna dire, considerando semplicemente non è che ha tirato la bomba a quest'ora c'è la concentrazione proprio, eccoli qua degli idioti, no, dalle 19:30 alle 19:50. Prodi sarà libero sarà libero di odiare Prodi però, o no? Ragazzi, dai. Ma siamo tutti così idioti nel saper accettare che ci ha portato comunque dove ci ha portato, accettando l'ingresso nell'euro. Vabbè, questa sempre questo, il miglior presidente del Consiglio dell'Italia abbia avuto negli ultimi anni, il miglior presidente del Consiglio degli ultimi anni, il miglior presidente del Consiglio degli ultimi anni. Non dire cazzate, dai. L'ho detto tante volte davvero. Poi lascio spazio, ma non dire se decido io a lasciare spazio, che lasci spazio, dai. Questa immigrazione selvaggia, e ho sentito e ho ascoltato con estremo interesse quegli interventi fatti da questi romeni con il rap, ma che cazzo è sta gente? Qui bisogna usare il bastone e dargliene di santa ragione nella senso? Coppa, nel coppino. Che ci senso, siamo dai. Rotti i coglioni. Cioè, bastonare gli immigrati, Allora, detto questo, bisogna che i radical chic di sinistra si tolgano dalle orecchie quel tappone di cerume di cacca. E si tolgano salame dagli occhi per vedere dove cazzo viviamo. Vabbè, ciao amico mio, ciao. Marijuana e zanzara, marijuana e zanzara, viva la zanzara, ciao Crucians. La zanzara. Allora ragazzi, abbiamo voluto verificare ieri a che punto è la raccolta di fondi di Richard Benson. Richard Benson. Chiamiamo. Io spero che risponda la moglie, la mitica Esther Esposito. Che si è scoperta essere malata psichica. La signora Esther Esposito. È una famiglia incredibile quella lì. Famiglia pazzesca. Esther, sì? Come stai? Sì. Sono Giuseppe Cruciani, ciao. Ciao caro. Come va? Bene, tutto a posto? Sì, non c'è male, volevo sapere come andava la raccolta di fondi. Qualche cosina si sta vedendo. Cioè, quanto avete raccolto fino adesso? Ma diciamo intorno ai 1.000 euro più o meno. Beh, buono 1.000 euro, sì, no? Cioè, sì, ma il programma della DURS ha portato qualcosa oppure no? Questo ancora non lo sappiamo perché ancora non sono passata in banca. Ancora tirate tu e Richard allora? Tiriamo molto, devo dire che tiriamo molto. Richard dopo 53 anni di questa carriera ancora ha successo. Senti, ma scusa, lei per carriera intende, sono Parenzo, intanto la saluto e la abbraccio. Però lei per carriera intende che durante i concerti si fa tirare in faccia dei polli? No, Richard è il più grande conoscitore di gruppi al mondo, sì. Caro signore. Parenzo, sì, no, Parenzo. Senza polemica, poi, non dico. Solo, lui senza polemica, lui, senza polemica. Ti ha fatto spaccare i denti, gli sputano, sì. Gli tirano la farina. Ma questo è successo negli ultimi anni. Ma questo è successo negli ultimi anni, caro signore. Negli ultimi anni è successo, prima non succedeva. Ma io non andrei in giro a dire che sono di grande successo se mi sputano a un concerto. Ma no, ma che c'entra? Quello negli ultimi anni ti sta spiegando. Se mi va bene così, ragazzi, mi è benissimo. Beh, fatemi tirare i polli in faccia, io non ho nessun problema, non me ne frega niente. No, a noi non ci piace che ci tirano i polli, che ci tirano la farina, lo yogurt, eccetera. È diventato un rituale dei ragazzi fare così. Un format. E non riusciamo a capire il perché. Perché il format è. Comunque, ragazzi, io non voglio essere bacchettore, sono sembra che sia matto io. Invece avete ragione voi. È normale tirare un pollo in faccia. Ma no, ma infatti loro che c'è. Vi ricordate, ragazzi, ottava nota, quando Richard presentava gruppi che nessuno conosceva al mondo, musicisti, vabbè, chitarristi. Comunque, avete ragione voi, non mi vabbè, ma questo beh, sì. Ma questo ve lo ricordate o no? Certo che ce lo ricordo. Ma questo il vecchio Richard. Beh, Richard numero uno assoluto, sempre. Richard, cioè. Poi sarebbe Riccardino. Comunque. Senti, va. No, veramente lui si chiama Richard Philip Henry John Benson, nato a Woking, sì. Vero, vicino vero. Londra, vero. Il 10 marzo del 1955. Va bene. È Parenzo che è sospetta. E guardate su internet il passaporto. Beh, sì, perché è ora di farla finita con questo Riccardo Benzoni che non esiste. Vabbè, quello poi bisogna verificare sto passaporto, però. Passaporto è vero, lui è nato a Woking. Comunque va bene uguale. Vabbè, va uguale. Senti, ma io non ho capito una cosa, ma è vero che tu prendi la pensione di invalidità? È vero, io sono un'invalida civile al 100%. Ma come sì. Mai? Che è successo? È successo che nel 1982 è morta mia madre e io sono rimasta traumatizzata. Sì, e uno prende la pensione di invalidità quando muore la madre? No. No, veramente ho cominciato ad avere allucinazioni uditive, olfattive e visive. Ah, ecco. E dunque? Ecco. E quindi sono stata molto male di mente e tuttora prendo psicofarmaci. Dunque, praticamente sei una malata psichica e dunque invalida al 100%, questa è la sostanza. Esatto, sì, sì, e, esatto. E che giustamente sai, con un un signore che si fa a tirare dei polli in faccia ai concerti. Però allora siamo due matti, saremo due matti. Ma no, ma qual è il problema? Allora, beh, guardi, qual è il problema? Sa, in questa trasmissione per Cruciani è tutto normale, quindi io dico, faccio notare semplicemente alcune piccole. Per Cruciani invece va benissimo. Ma io li adoro, io li adoro. Una malata psichica al 100%, che sta con un signore che ha dei denti spaccati perché ha un concerto, gli hanno tirato un po' in faccia e voi dite che è normale? Ma no, io li adoro questi due, che devo fare? Li adoro. Grazie, vi passo Richard. Aspetta, aspetta, Esther, aspetta una cosa, aspetta. Richard, scusami, no, volevo parlare con tua moglie di questa cosa qua della dell'invalidità che ha, no? Pronto? Sì. Sì, come stai innanzitutto? Pronto? Che non so molto bene. Che è successo? C'ho problemi al cuore. No, ma questo lo sappiamo. Non riesco a respirare bene. No, ma oggi che c'hai? Niente. Ma che ti frega, scusa? No, quello che c'hai di fondo lo so. Non capisco come stai oggi, scusami. Allora perché ridi, scusa? No, rido perché ci siamo... Come ti permetti? No, non sto ridendo, sto sorridendo. Sto sorridendo, per carità, non mica rido... Ti saluto, ciao. No, non me ne frega un cazzo. Ciao, ma non rido ciao. Perché stai male, per carità. E i nani. Li avete visti i nani sulla riva del fiume? Chi canta questa signor poesia? Signor Richard Benson. Questo poema, chi lo canta? Ma Bob, scusa, Dylan. Ma perché sei incazzato? Perché sei incazzato? Scusa, ma è normale. Sembra che recitava una cosa. Come stai? Sto male. Che c'hai? C'ho male al cuore. Beh, lo sappiamo questo. Detto. E sei incazzato. È una settimana vabbè, che sei. Roba incredibile, dai. Un tempo non li potevo vedere, mi facevano tanta paura. Ma che roba è? Bestiale, ma ti credo che gli tirano i polli in faccia? Uno canta della roba dei nani, dai. I nani. Che roba è? Senti, ma è bello il verso, questo qua, guarda. Aspetta. Sì, il verso. Aspetta. Ma che è? Aspetta. Mica è Leopardi, il verso. No, la strofa, aspetta. Il verso. E basta, questi nani. Manco fosse Carducci. Ma che basta con i nani! Sono nani, ecco, dice. Aspetta. Li avete visti? Ma chi avete visto? I vede fiume. Ma chi? Lucia Pordenone, vai! Ma cos'è che dobbiamo vedere? Non ho capito. Lucia da Pordenone, vai! Ma questo Pronto? Si fa di roba brutta. Lucia, eh? Eccoti, come stai? Chi come è stai? Lucia, la mignotta nel campo. Ecco, mancava. Oh, mancava. Nell'ordine hanno chiamato transessuale. Adesso arriva la signora, la prostituta che viene nel camper. Benissimo, avanti. Ascoltami, Parenzo. Tu sei froscio anche la tu. La prostituta. Perché? Perché? Che c'entra? Che difendi l'apo perché è andata con un trans. Ma tu la attacchi perché i trans ti hanno tolto il lavoro, Lucia. No. E come no, lui, i clienti che vengono con noi, deve fare anche la fotografia e portare alla moglie. Brava. Sì, certo, la moglie. È certo. Lui che l'apo ha pagato perché un trans. Ma quella la fotografia, diciamo, non c'è bisogno della fotografia, diciamo, per l'apo, Ecco. Intanto cominciamo col dire una cosa. Da lei, cara Lucia da Pordenone, che vive in un camper. Esercita in questa. Non viene nessuno. Tranne dei vecchi rintronati. Un po' ancora. Ma non viene nessuno. Lei è una vecchia prostituta. Una simpatica, anche per carità. Vecchia, detto con rispetto. Baldracca di 70 anni. No, te lo dico io, cara. Dopodiché, lei sta lì in questo camper. Non lavora mai, perché telefona sempre alla radio. Ma questo è sicuro. Quante scopate hai fatto oggi? Tu sei vecchio di cervello. Quante scopate hai fatto oggi? Tre. Beh, ottimo però, Incasso? Sul presso però, adesso fa troppo freddo. Ho capito, amica mia, quando fa freddo fa freddo, quando fa caldo, e che cazzo? No, quando fa caldo vengono di più. Non ho capito, totale dell'incasso di oggi quanto è stato? Perché vuoi sapere? Ma lo voglio sapere, zero, lo te voglio lo dico sapere. Io. Mica lo voglio comunicare, mica lo voglio comunicare. È stato ragazza, zero, te lo dico io. Dimmi, ma no, stato. È da comunicare alla radio, eh. Dimmelo, quanto, quanto? Ma cosa vuoi che abbia incassato ah, questa hai fatto qui? 30 botta, dai. Ma 30. Ascoltami, Parenzo, non degradare le persone. Guarda, ma, non, ma figuriamoci, tu. È molto simpatica lei, anche se è una prostituta simpatica. Un'anziana prostituta simpatica. Io però di cervello sono giovane, stronzo. 30, 60, 90 di cervello. Hai fatto 120, 150 dai, 120 al massimo proprio massimo. No, la seconda. Cioè 150 hai fatto? Ecco. 50 botta, dai, 50 botta ecco. Ragazzi, io vi dico, io voglio aiutare. Io voglio aiutare questa signora. Se vi trovate dalle parti di Pordenone, com'è esattamente la via? Com'è la via? Dimmelo, dov'è esattamente? Dacci non le coordinate. Codroipo, dov'è? Codroipo, non mi ricordo. Codroipo, sulle stradine di campagna. Ragazzi, andate. Ma io ce l'ho con Parenzo, lascia perdere il mio lavoro, io ce l'ho con Parenzo. Andate a Codroipo. Sono comunque orgoglioso che una vecchia prostituta di Pordenone ce l'abbia come... Sì, chiamatela come vi pare. Tu l'hai ce chiamata Badracca. Come... Sì, vabbè, come si deve chiamare. Se, se fermi tutti, vendica. Fermi. Siamo il top! Siamo il top! La zanzara. La zanzara è un mondo nel quale è facilissimo entrare, ma uscirne è praticamente impossibile. Voci dall'Italia, amici miei, voci dall'Italia, sgarbone ieri sera, oltre che da noi anche a Matrix. Fa un appello a Trump. Trump, non fare il processo all'Apo. Beh, amico mio, non credo che Trump possa. Bravo, giusto, bravo. Sì, ho capito, ma Trump giusto. Non può fare un cazzo, scusa. Cioè, Trump non è che può dire al giudice: scusa, caro giudice, potresti non incolpare sì, l'Apo per il finto sequestro. Dai, su. Comunque, sgarbone, fa l'appello a Trump, dai. Sai che sono un amico. Se l'America fa il processo all'Apo e il Khan, fai più cagare di Hillary. Lasciate perdere, sputtana la giustizia americana, un processo per una puttanata di questo genere. Daglieli tu 10.000 euro. Confesso di essere bisessuale, anzi lesbica. Invece anch'io devo riconoscere che sono bisessuale. Cioè? Anzi, sono anche un po' omosessuale. E ho fatto uno studio profondo insieme, sono andato da lui a curarmi, e ho scoperto che la mia omosessualità è lesbica. È lesbica? Sì. Esatto. Cioè, quando fai vento omosessuale, divento Vittorio. Vabbè. Poi diciamo che da noi è stato un po' più esplicito su alcune cose. Sì, per esempio, mi ricordo, tengo mi al mio culo e penetrai. Vabbè. Eva Robbins. Io tengo molto il mio culo, quindi sono al carico. Non ti sei fatto mai incappettare. No. Non ti sei fatto mai incappettare. Posso utilizzarlo con un. Perché io fui tra quelli che ebbero un rapporto con la famosa Eva Robbins. Come no? Ma rapporto di che tipo? Gli hai toccato l'uccello? Gliel'hai. No, sono passato da dietro. Ma l'hai incappettata tu? Cosa che è del tutto logica con un tratto. Vabbè, quello è normale. Ma è logico che sia lui a mettertelo nel culo, no? Quello non l'hai fatto, non l'hai fatto. Però ma non l'ho fatto, ma il sesso orale, il sesso orale l'hai fatto con un trans, no? Ma quello vabbè, è uguale, sai, la bocca è uguale, quindi. No, tu se l'hai fatto tu. No, io no. Sgarbone. Cosa sgarbone. Interessante è sempre questo linguaggio evocativo, immaginifico anche direi, no? No, ma devo dire che invece lui come è usato. Tu intervisti con un linguaggio immaginifico. Beh, lasciando la magia dell'immaginifico. Dire, lui lascia suo, immaginare, no? A ognuno il suo. Come non vai mai diretto, allora, no? Mi tu, segnalano dritto. Che Prodi disse una volta con l'euro sì, lavoreremo un giorno di meno guadagnando come se lavorassimo sì. un giorno di più. Vabbè, questo... Con l'euro lavoreremo. Il presidente del Consiglio che italiano. Con l'euro lavoreremo un giorno sì. di meno, guadagnando però. Come se lavorassimo un giorno di più. No, ma dico solo questo. Poi vabbè, ognuno fa, dice, pensa com'è. Però disse questa frase. Vi torna? Vi torna? Sì o no? Ma così per dire, poi per carità. Marco da Milano, vai Marco. Sì, ciao. Senti, dimmi. Ma non ho seguito tutta la trasmissione, magari qualcuno l'ha già non detto. Non c'è bisogno, dimmi. L'ipotesi che ha la Polcani in due maniere se lo sono inculato, no? Come, non ho capito, scusa, chi è che se lo sarebbe inculato oltre al trans forse? Chi è? Perché secondo me va bene che non ha una grandissima capacità cranica, però cazzo ragazzi, 10.000 euro quelli in tasca ce li assicuro. Ma ragazzi, ma non è vero, non è detto, ma questa gente qua di solito i contratti non ce li ha, è esattamente il contrario di quello che pensate. Tutti si stupiscono, il rampollo senza carta di credito, non è vero. Ma gliel'han tolta. Ma non è così. Gli hanno tolto le tre carte black che aveva. Non aveva dietro le carte disponibili. Ne aveva cinque. Non è che se uno come me che va a lavorare tutti i giorni ce l'avrà un amico con un deca in tasca, deve tirare fuori. Ma un amico che era da solo a casa del trans? No, ma che stai a dire? A New York ce l'avrà un amico. Ma lì. Ho capito, ma erano le 4 di mattina, era tardi, le 5, non lo so, non lo sappiamo, sono dettagli anche interessanti, ma è evidente che se ha chiesto qualcosa significa che in quel momento non li aveva disponibili sotto mano, non è che non ce li ha. No, quello sicuro, però e allora che cos'è? Poi magari il dubbio è come si è comportata la famiglia, qualcuno dice l'hanno voluto punire, però se tu avessi la disponibilità, se tu hai la disponibilità, questo ti chiama, siete amici e ti dice sono nella merda, dammi 10.000 euro, non glieli dai. No, ma sì, ho capito, ma il problema è che chi chiama, magari in quel momento c'era i telefonini. La guardia del corpo deve chiamare, non ha un altro che sputtanarsi così. No, per me, non lo so, è ovvio che è fantasia la mia, perché non so niente, però mi dà l'impressione che non è chiara così. Va bene, Michele, sempre Milano, vai Michele, dimmi. Ma, io mi stupisco che il buon Parenzo stia cadendo sempre più in basso, diciamo che oggi ci ha anche deliziato, come dire, a pochi giorni di distanza dalla giornata contro la violenza sulle donne, come dire, si abbassa con uno degli insulti più gretti e maschilisti, cioè, che ha fatto? Alludendo alla mamma, come dire. Ma quella è una dialettica con un ascoltatore. Ma dai, io ho detto che semplicemente non so che cosa faccia la madre. Profondo, che costantemente infastidisce. Sì. No, ma questo è vero. Sì, che conversazione. Ma non è vero, ma che dici? Sì, sì, questa ha ragione, dai, su questa ragione. Ma la coerenza, come dire, l'ha dimostrata ancora una volta col suo doppio pesismo in questa vicenda del povero sciroccato la Puel. Ma infatti non c'è nessun doppio pesismo. Cioè, se lei mi chiede che cosa penso io di chi fa uso di cocaina e anche di transessuali, il mio giudizio ovviamente è che io non ho mai fatto uso né dell'uno né dell'altro e reputo stupido, nonché autocriminale, distruggersi in questo modo. Ciò premesso, ho sempre detto che sono a favore della legalizzazione delle droghe, questo l'ho sempre detto. Tratti, e a favore della legalizzazione della prostituzione per togliere... Esatto, tratti infatti. Gli ascoltatori che vanno a puttane come dei miserabili. Ma certo che sono dei miserabili, chiaramente sono dei miserabili. Ha fatto la stessa cosa. No, ma della quello che mi colpisce della vicenda... Se non il cognome diverso e la disponibilità economica. Ma no, è quello che mi colpisce della vicenda... Ha una certa sensibilità in merito e quindi... No, io ho nessuna sensibilità, me ne frega niente. La cosa che mi stupisce è tutti questi che se la prendono con l'Apo semplicemente perché ha la colpa di essere nato ricco e quindi sta sulle balle a molti in questo paese. Perché no, se uno è ricco allora è un problema. Quella non è una colpa, quindi viene sbeffeggiato, viene umiliato. Vabbè, lui ha fatto i suoi errori, il ricco chiaro. Che sprofonda, diciamo, il ricco che commette degli errori, ma è ovvio che finisce nelle grinfie della polizia. Per nulla, è ovvio. Come per nulla ovvio, invece è chiaro, sbagliato, è questo che io dico che è sbagliato. È sbagliato, ma esiste, succede purtroppo che la gente gode quando uno ricco. Quando uno ricco finisce nella merda, perché c'è poco da fare. No, la gente gode. Non bada a se stessi, ed è normale che sia così. Guarda cosa fa, guarda gli altri, qui c'ha quello lì ricco, guarda, gli sta bene a quel ricco, fermi non ha mai fatto niente in vita sua, fermi cosa tutti, non vera fermi peraltro. Tutti, fermi tutti. Io richiamerei casa Benson per vedere la situazione, per sentire la situazione dalla signora Esther casa Benponad. Benson, casa Benson. Ho capito, lo dico, casa Benson. Infatti non casa capito. Richard Benson, mio mito ormai. Il tuo nuovo idolo è questo qui. La coppia, ho scoperto che la moglie è meglio di lui, molto meglio. Aspetta. Pronto? Esther? Sì. Ciao, sono Cruciani. Ma che è successo ieri che Richard si è incazzato? Non lo so. Si è incazzato al telefono e dice che ridevamo. Non lo so, sinceramente. Ma no, ma noi non siamo. Figuriamo. Ridevamo sul fatto della roba che uno gli tira addosso, ma non è che ridevamo di lui. Cioè, certo. Io posso ridere di lui, secondo te? Cioè, non lo so. Boh, mi sembra una follia. Vabbè, Richard ha fatto così, a volte sì, a volte si arrabbia, a volte no. Senti, no, ti voglio chiedere una cosa. Ho sentito che tu hai utilizzato qualche volta dei soldi di tua sorella per giocare al bingo. Che è successo là dalla D'Urso? Sì, perché la D'Urso mi ha detto, però tu vai al bingo, giochi al bingo. Questo non è bello però, eh? Lo so, ma è l'unico svago che ho, caro. Io non ho altri svaghi. Lo so, amica mia, però uno dice che gli mancano i soldi, eccetera, e poi va al bingo. Questo è sì, buono. Però il bingo io ci vado con i soldi di mia sorella. Cioè, non è che utilizzo i soldi della famiglia. Beh, ho capito, perché non sono della famiglia, scusami, però se uno va a fare chiede la raccolta di fondi, non abbiamo una lira, c'è un problema, la casa, e poi dice gioco i soldi al bingo, uno dice no, c'è qualcosa che non va, potrebbe dire, scusami, Sì, questo è vero, però mia sorella ha una famiglia e io e Richard siamo un'altra famiglia. Ma se quella ti dà i soldi e tu vai a giocare al bingo invece di spendere per le medicine, per la casa, che ne so, eccetera, uno potrebbe... No, ma qualche volta può capitare che magari non sappiamo che fare e andiamo a spendere 10-15 euro, non è che andiamo a spendere queste cifre pazzesche. Ah, ho capito, 10-15... Non è che andiamo a giocare cifre enormi. Ho capito, ma se mi hai detto che c'hai 7 euro in banca, 8 euro in banca, anche 10-15 euro a botta possono essere utili. Dico io, cioè... Sì, però voglio dire, invece di andarci a mangiare una pizza, ci andiamo a fare 3-4 partitine, vinci mai niente, naturalmente. No, no, invece a volte vinciamo, invece. Tu non hai nessun vizio? Alcol, cose di questo tipo, no? Allora, di vizio io le sigarette, solo le sigarette. La droga niente, non ti sei fatta mai nulla la droga? No, whisky, solo... cose del genere. No, non bevo alcol, assolutamente. Ogni tanto d'estate un bicchiere di birra. Te bevi la birra d'estate, vabbè, sì. Quello succede. Ma pure tu canti ogni tanto, no? Visto che là cantavi... Sì, io alla fine degli anni 90 con Richard facevo Child in Time dei Deep Purple. Addirittura? Sì. Com'è che fa? Aspetta che non me la ricordo. Com'è? Sweet Child in Time, you'll see the line. The line that's wrong between good and bad. See the blind man surely had a role. But it's life I'll take control. If you feel bad, oh Lord, I bet you have. And you don't be a mill by the flying lad. You better close your eyes. By your head. Wait for the ricochet. Mamma mia. Ottimo. E poi partivo con l'acuto, che adesso non riesco pure più a fare. Perché? Com'era l'acuto? Com'era? No, facevo un acuto pazzesco. Ma poi ho sentito anche O Sole Mio. Che era O Sole Mio? Sì, canto O Sole Mio dal vivo. Nuda pure, con le tette di fuori ho visto. Con le tette di fuori. Beh, non è bello, ma che non è famiglia bello. È, ragazzi? Ma questo non è bello, però. Ma vabbè. Che famiglia è? Ma che dite? Scusatemi. Ma perché con le tette di fuori? Scusami, Esther. Perché così faccio felice il mio pubblico. Ma ragazzi, capito, però. Scusatemi, adesso scusi se interrompo, però, perché non ne posso. Sono Parenzo, salve, scusi. Già ieri ebbi a dire che secondo me è alquanto strano il marito felice di prendersi yogurt e bolli in faccia. Lei che canta con le tette di fuori. Ragazzi miei, non è normale, però. Ma ognuno c'ha la sua cifra, no, ognuno non so c'ha cosa la... dirvi, ma ragazzi. Che vuol dire? Io sono veramente. Vabbè, comunque dai. Ma ognuno c'ha la sua cifra artistica, giusto, Esther? Cioè... Certo, tu, ma le tette di fuori, quando è iniziata con le tette di fuori? Ma non lo so, qualche anno fa è iniziato. E mi sembra normale tutto questo. No, vabbè, ma anche belle grosse, cadenti ho visto, no? Beh sì, normale quello, insomma. Belle grosse. Vabbè, ma che cosa c'è di artistico? Cosa c'è di artistico? Ma com'è? Cosa dite? Cosa ma dite? Non lo so, è simpatica è come cosa. Ma assolutamente sì. Ma come simpatica? Una cosa simpatica. Com'è una che cosa si fa? Che fa ridere il pubblico. È così, dai, ma perché la devi dire adesso? Allora, fate passare per normale che aspetta. Quell'altro, il marito, si piglia un bollo in faccia, c'ha i denti rotti. È normale alla fine di un concerto, anziché applaudire, tirargli le cose in faccia. Alla fine del concerto tutti i ragazzi fanno la fila 2-3 alla volta per tirargli le cose in faccia. No, fare la foto e per fare l'autografo con Richard. Ma com'è O Sole Mio? Sai cantare O Sole Mio bene? Adesso te la faccio. Fammela, te prego, dai. Come detto, è bella cosa, è una giornata sola. L'aria serena, troppo una tempesta, e l'aria fresca, pare già una festa. Oh, bella cosa, una giornata sole. Come tette fuori tutto questo? Tette enormi, cadenti. Oh, sole mie! Tette di fuori enorme, grazie. D'affronta a te, oh sole! Arezzo. Oh, sole mie! David? D'affronta a te! Aspetta, bravo, aspetta. D'affronta! Oh, mamma mia! Yoga! Segnalo incidenti sul grande raccordo anulare, eh? Tutto questo con le tette de fuori, tutto questo con le zinne de fuori. Tutto con le tette de fuori, sì. Le zinne de fuori. Vabbè, comunque, vabbè. Ragazzi, se per voi è bello ed ma è quanto, normale. La D'Urso quanti soldi va dato per andare là? No, la D'Urso a gratis. Non strano, ha dato soldi. Di solito c'ha il gettone là, eh. Piccolo Arjan. Arjan de poche. Io non mi permetto neanche di chiederlo. Tutti chiedono, no... ma che fa dalla parte dei fessi? Tutti quanti vanno là, pigliano il gettone e cominciano ad andare senza gettone. Che sei matta, sei? Vabbè, che c'entra? Forse lo danno quando sei lì presente, non magari di collegamento. No, danno da sempre casa. Gettoni lì, danno sempre gettoni. Ma giustamente, danno gettoni continuamente. Uno deve chiedere il gettone, chiama, scusa, in presenza, 1000 euro, 1500. Ma chi dici che adesso magari cosa? Lo fanno? Ma devono farlo assolutamente. Ma non vanno intaccate le casse di Mediaset, dai, lascia stare. Vabbè, chiamiamo dopo, va, ciao, ciao amica mia. Ciao, ciao, ciao, Estra, numero uno, ciao. Ciao. La Zanzara. Parenzo, ti ho sempre considerato uno stronzo radical chic, ma fondamentalmente una persona onesta. E in realtà invece sei un gran leccaculo, servo dei potenti, e lo stai dimostrando con l'apo. Scusa Parenzo, se sei una persona normale vai a puttane a trans, sei un miserabile. Se invece ti chiami l'apo Elkan, sei un tipo eccentrico. Ma vaffanculo vai, va baraculo. Parenzo, perché non ti sei scagliato contro lo sfruttamento delle trans da parte del signor Lapo e Can? Perché? Ma se al Lapo gli piace prenderlo nel culo, gli piace più la cocaina, la movida, New York, soldi, è perché siete invidiosi. Fatevi i cazzi vostri e vivete la vostra misera vita, miserabili! Lapo numero uno assoluto. Allora, per Parenzo, i padri di famiglia che vanno a puttane bisogna sputtanarli con tutta la famiglia, e invece la Polcana che va a trans, no, non bisogna parlarne. Viscido lacché, confronta a te l'anguilla e carta abrasiva. Crucia, hai rotto il cazzo con la Zanzara. Noi vogliamo sentire la pubblicità. La pubblicità. E il traffico. Scegli Pantera col TH. Scegli l'IRP di Infracomitalia per competere nel mondo. Vi presento La Zanzara. Cruciani, ma com'è possibile che Mantova è diventata la città più vivibile d'Italia, visto che c'è quel pirla di Mauro, da mamma di Mauro, quell'essere abietto? Come fanno a fare la città migliore d'Italia, considerate che c'è quel soggetto lì? Ma è impossibile, non c'è religione, non c'è più religione. Adesso questo è un dato di cui... Questo è vero, è strano. Questo cioè, è strano. Cioè, cosa è strano? Cioè, il fatto che Trento sia stata scalzata da Mantova, sì, come una delle città più vivibili d'Italia, nonostante la presenza di quel miserabile personaggio putrido di una che potrebbe, che invece avrebbe potuto, come dire, danneggiare e declassare la bellezza di una città che ha Palazzo Te, che ha dentro gli affreschi del grande Giulio Romano che dipinse gli amori degli dei, tutte cose questo, di cui quel cretino patentato non sa niente. E ogni volta che parla la radio, quella città, Mantova, straordinaria, famosa appunto per Giulio Romano, per i tortelli alla zucca e per quant'altro, viene declassata. Invece, miracolosamente, nonostante tutto, nonostante Mauro da Mantova, risulta essere la città più vivibile. Cioè, tu dici nonostante Mauro da Mantova, forse perché si è trasferito in una provincia vicina, probabilmente. Probabilmente così. Probabilmente così. Il peggio di Radio Padania, ragazzi, sentite, oggi è il top, Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Padania bella. Ascoltatori, vai! Non capisco come che sto cancro del governo ne abbia messo in queste condizioni, che capio. Non capisco come che si possa far venire sta genia dei popoli del caso a far che il caso chi vuole qua danno altri. Questo è bene, tu hai delle parti tue. Sì, non capisco come questi popoli del cazzo vengono più, qui a fare il cazzo che vogliono. È più provincia di Venezia, se dovessimo fare un'analisi. Vai, vai. Mi vedo un sacco di gente in giro che cammina senza fare un cazzo da mattina alla sera e mi so che vanno fuori dal lavoro finio e vedo sti qua che va a giocare a Superenalotto, i gioca su slot machine. Non lo cambiare più quei scherzi, gioca sti qua, certo. La libertà. Sì, verso un centro d'accoglienza vicino a Padova, vicino a Treviso, bisogna dare fuoco. Bisogna dare fuoco prima che vada dentro. Dare fuoco ai centri di accoglienza prima che vadano dentro. Ecco, mancava. E ora che siamo a capire ai prefetti, a sta brutta gente che si è coperti, i guys gay e i se dentro le ville con le telecamere, che il primo che entra dentro lo brucia vivo con laser, giusto? Il fuoco è solo simbolico. Sali Padania. Saliamo con Varin, e saliamo con Varin, vai Varin, vai! Questi sono africani e non vedono l'ora di farsi una nostra ragazzina bianca, anche solo per vendetta. Oh, mi sono scopato figa bianca, dice bello figo su YouTube. Questo comunque è il capo di Ku Klux Klan, Marine, questo è scemo, ma che dici? Ma come si permette? Ancora, senti. No, ma questo è matto. Abbiamo i militari che passeggiano, ma con loro ci deve essere un africano, perché non capiscono un cazzo di quello che gli dicono gli immigrati. Hanno bisogno del mediatore culturale, signori. Gli italiani non fanno più figli e gli unici figli che ci sono in quel paesello sono negretti. E allora è giusto, prendiamo il bambinello negretto, ma... Il capo del Ku Klux Klan italiano, certo. Ma forse è troppo, Sammy Varin, forse è troppo. Radio Padania, quella roba lì. Ma quelli sono forti, in America sono forti. Radio odio, radio odio. Allora, con noi Daniela Martani, buonasera. Buonasera. Buonasera, ciao. Come ciao. Vai? Come stai? Ciao, cara. Come stai? Ciao, parente. Senti, ciao, cara. Come che c'hai? Bene. Hai mangiato bene oggi, sì? Che hai mangiato? Sì, sì, sì, sì. Qual è stato il tuo pranzo oggi? Un buonissimo risotto con i funghi. Risotto con i funghi, ottimo. Tutto normale. Sei sicura che non conteneva nulla? Che non conteneva nulla di animale? Sei sicura? Assolutamente, tanto i funghi vanno ripassati con la cipolla, poi va tostato il riso e si aggiungono poi al brodo vegetale, via. Senti, però... il brodo vegetale, sì, chiaramente, certo, di verdure, poi un po' di grana sopra, no, il grano non si può mangiare. No, il grano sì, formaggio vegan che è uguale al grana, cioè ne uno che vegan assomiglia proprio come sì, come sapore assolutamente. Dovrebbe, il grana vegan dovrebbero denunciarvi ma non i si produttori. Chiama grana, chiaramente. Sì, sì, si chiamerà grana uguale, si chiamerà... No, non si chiama così. Però chiama ha così la forma uguale, lo spacciato come simile, lo dovrebbero... posso dire, si chiama prossone, questo qua proprio sì, la forma è simile, vabbè, un pezzo di formaggio. Vabbè, invece del grano, perché il grano non si può, no? Il grano ai vegani no, perché viene chiaramente il latte di mucca, eccetera, eccetera. Cioè, eccetera, il caglio, animale. Latte vaccino, latte sì, che è veleno, vaccino, chiaramente. Ma che veleno, ma quando mai? Assolutamente sì, ma beh, non avete letto le China Study, evidentemente. China Study, ma China Study, ma che dio... Allora, ragazzi, però diciamo... Perché bisogna dire che il latte che producono le mucche non va bevuto? Ma perché bisogna perché dire non va bevuto? Perché il latte innanzitutto le mucche si fanno male. le mucche si fanno male, giusto? Innanzitutto no, il latte che ogni non vogliamo parlare della questione etica, cioè della questione del fatto che i vitelli vengono tolti alla madre appena nati e messi in una gabbia al fine poi di mandarli al macello pochissimi scusa, giorni. Scusa, tu bevi il tuo latte? Ok, questa cosa... Ma io ho bevuto il latte di mia madre quando ero... Sei morta? Quando finisce lo spezzamento, non bisogna più bere latte. Punto, non abbiamo più gli enzimi per poterlo digerire. Tant'è che infatti la maggior parte delle persone sono intolleranti. E se vai a vedere, sì, i latti sono tutti scremati, pastorizzati. Perché non si riesce a bere come viene naturale da una mucca? Però... E comunque voglio farvi una domanda. Perché il latte di cane non si beve? Perché il latte di maiale non si beve? Ma è diversa la cosa. Perché quello è più buono. È semplicemente più buono. Assolutamente no. La capra sì, ottimo, il latte di capra pure è ottimo. La cultura ci dice che il latte di mucca lo possiamo bere, il latte di altre specie no. Capra si beve, è buono il latte di capra. Comunque questa è capra. Mentale, comunque è stato spiegato. Senti, però c'è una cosa, in Inghilterra succede una cosa particolare, cara Daniela, cioè hanno trovato i vegani sono incazzati, i vegetariani, i vegani e quant'altro, sono incazzati perché hanno trovato del grasso animale all'interno della banconota da 5 pound, da 5 sterline. Ora, in realtà io ho letto che non sono soltanto gli animalisti che sono incazzati per questa cosa. Vabbè, comunque, ma anche a gente comune. Infatti, la gente non gliene frega un cazzo, c'ho 5 sterline in mano. Non gliene frega, non ti preoccupare. Il grasso animale, ma secondo te c'è anche nell'euro? Bisognerebbe fare un'indagine o no? No, perché quella è una. Lo sai che è una moneta plastificata, quindi la cartacea ancora non. Però secondo me bisognerebbe fare un'indagine. Non c'è il rischio, dici. Per la nostra moneta non c'è il rischio. Per quella io non so come gli è venuta in mente. Tant'è che è partita una petizione, chiaramente. Ma quale petizione? Figuriamoci se la gente si preoccupa di sapere. C'è anche il grasso animale nelle sterline, chi se ne frega? Ma chi se ne frega? Ma a te non te ne frega, a tanti altri gliene frega. Siccome noi cerchiamo di evitare di utilizzare non si può mettere a soqquadro il mondo per un po' di grasso animale in una supposta sterlina. Ma se io sono vegetariana vegana e comunque non voglio avere a che fare con niente che contenga. Ho capito, ma ce l'hai in mano le sterline. Ce l'hai in mano le sterline. Ma non lo voglio toccare, scusami. Non vuoi toccare. Mi spieghi l'utilità di utilizzare. Ma non lo so, ma ci sarà qualche utilità. Siamo alla follia, tanto ormai qua non si riesce più a fare niente senza mettere di mezzo gli animali, ammazzarli, assassinarli in qualsiasi modo possibile. Addirittura. Senti, il mondo vegano, a proposito, come vota il mondo vegano? Sì, tu che Renzi, guarda, ha proprio consegnato l'altro ieri il voto degli animalisti al no. Ma proprio te lo dico addirittura. Sinceramente. Perché ha approvato proprio ieri, tra l'altro, un decreto che è una schifezza vera. Allora, io te lo dico per come l'ho letta chiaramente. Comunque, mi stai dicendo che il mondo vegano animalista vota no. Perché, secondo te? Perché, non so se l'hai letto, che praticamente è stato approvato un decreto dal Consiglio dei Ministri, che ieri ha consegnato la vita della fauna selvatica in mano ai cacciatori. Ma che stai di la vita della fauna selvatica in mano ai cacciatori? Informati. Viva la caccia, Le province autonome di Trento e Bolzano hanno avuto carta bianca sull'uccisione totale di tutti gli animali presenti sul territorio. Ma quando mai? Abolisce la caccia, Renzi, punto e basta. Quello è normale che non l'abolisca, no? No, ha dato carta bianca. Tu devi sapere che c'è la fauna selvatica è sotto tutela dello Stato italiano, ok? Non ho capito che ha fatto di così strano. Innanzitutto, ho scoperto che ci sono i preti cacciatori, numero uno. Che cosa che ha fatto così strano? Ci sono delle specie che sono tutelate dallo Stato italiano e nessuna provincia può ucciderle Ha fatto un provvedimento contro alcune specie. Ha fatto carta bianca totale, quindi si possono uccidere orsi, marmotte, stambecchi. Gli animalisti voteranno no. Assolutamente no per questa cosa. Piuttosto di sentire questo argomento sento il traffico sul Brennero, sul Brennero. Ma chi, Parenzo, se parli tu? Fermo un attimo, fermi lì. Ti posso dire una cosa, Parenzo? Lo sai che questa cosa non solo ha consegnato chiaramente la vita ma praticamente potranno i cacciatori potranno sparare nei parchi sul privati. Brennero. Meglio il traffico sul Brennero. Fermi tutti. E mentre stiamo a letto insieme, gli chiedo di gridarmi: amica mia, amica mia. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da San Martino di Castrozza, Passorolle, spettacolo e avventura tra le Dolomiti. La Zanzara. Living easy. calzini vanno usati finché sotto non fanno la crostina. La crostina, allora quando c'è la crostina, allora vuol dire che bisogna cambiarli. Dunque 8-10 giorni circa. Il mio professore, noto neurologo pediatra di fama internazionale, autore di articoli sulle più illustri riviste scientifiche, oltre a pisciare nel lavandino, si cambia i calzini una volta a settimana. Ah, profumano le mutande, va, si rimettono e siamo a due giorni. Ciao Crux, ottime idee. Allora, prima di tornare con la che signora Martani, zozza che c'è in giro, con veramente. La signora Martani, zozza. Nostra super vegana, che sostiene che il governo Renzi si è macchiato di un delitto gravissimo e dunque tutto il mondo vegano è schierato e animalista, schierato per il no. Andiamo però, sai che i sondaggi sono vietati, no David? Sì, certo. I sondaggi sono vietati. Noi però abbiamo la nostra sondaggista arrivata, nei bar di Milano. Paradiso, la signora Maurizia? Esatto, Maurizia! Io non sono Maurizia, io sono Patrizia, che il culo ti delizia. Allora adesso vado in moda a fare per $10,000. La filosofa. Sì. Se ti togli quegli occhiali e ti metti un po' di fondotinta, mi sto sequestrando per $12,000, amore. Ok, allora. Comunque, allora, Maurizia, scusami. Maurizia, scusami, quel hop, din. Su bel duro, te lo farò diventare duro come la coda di un canguro. Allora, ascoltate, sono qui al bar. Sentite l'applauso della gente che voterà. No! Signora Paradiso. Sono quattro gatti. Subito un signore che è incazzato nero. Ti passo subito un signore che analogicamente, perché adesso va di moda a prenderlo nel culo, insomma. Perché adesso c'è uno slogan che è Lapo col culo areato leggermente deumidificato. Ti passo uno di questi. Signora, è una filosofa proprio, no? È una poetessa. No, perché il Renzi deve andare a casa. Beh, ma perché? Uno del bar, i sondaggi della Paradiso. Bar. Che bar? Scusi, perché deve andare a casa Renzi, signore? Perché sì, votate no, perché tutte bugie, tutte fannulloni. Ma tu sai che sei islamico? Che sei? No, sono fannulloni, il signore è rimasto educato. Sentiamo invece la signora. La signora vota sì o no? Lei cosa vota, sì o no? No. Lei non vota perché? Perché è un'extracomunitaria? Sì. E quindi? Ma dove è la zoccola, signora? Vabbè, non vota, aspetta. Ma perché dice così, allora, signora Paradiso? Vediamo la figlia se zoccola pure lei. A Maurizio. Vediamo la figlia cosa vota. Lei vota sì o no? Sì o no? No, loro non votano, hai capito? Ecco, ma loro non sanno neanche chi è Lapo. Però adesso, ragazzi... Ma che c'entra Lapo con il referendum? Non c'entra niente. No, Lapo c'entra, amore, perché adesso ti dico una cosa. Ma tu sapevi tutto, naturalmente. Allora, Maurizio, sapevi tutto, no, di Lapo? Allora, ascolta, se sì, l'inculata toscana è aria sana. Se no, amore... gli amanti del grilletto, attenzione, che anche oggi è morto il mio ginecologo, mi ha toccato il grilletto e è partito un colpo. Bisogna stare molto attenti anche dice? Per il no. Allora, senti, per esempio, un paradiso. Questo ragazzo sta mangiando, ma mi manda a fare in culo. Dai, fai un altro sondaggio al volo, tutti no, non è possibile. La cosa bella è che è proprio raffinata ed elegante nel porre le domande. Chi è? Pronto. Che vota? Che voti tu? Come ti chiami? Come ti chiami tu? Massimo. Che voti tu? Questo è fatto. Io voto no. Tu voti no, pure tu. È un posto tu malfamato no. Questo. Il popolo vota nei no. Bar di perché? Caracas. Perché? C'è gente. Perché ti sta su cazzo Renzi e voti no. Ma che stai a fare lì al bar? Che stai a fare questo al bar? Stavo mangiando, guarda. Al bar? Sì. Al bar, che se mangia al bar alle 20:40 di sera. Comunque, vabbè, ma che okay, lavoro. Qual è il problema? Tu che... sei da grandi ristoranti? No, che lavoro fai? Scusami. No, si mangia gli agnelli a Pasqua, sto stronzo. Che lavoro fai? Senti la signora sotto. Cruciani, tu ti mangi gli agnelli a Pasqua. Aspetta, anche ti passo sì. La sua fidanzata. Signora, lei vota no? Sì, dai. Io non voto proprio perché mi stanno tutti sul cazzo. Allora, ma che c'entra questo? È un locale strano, però c'è una concentrazione. Fai un altro tentativo. Andiamo. Che il nostro amico Lapo sta sul cazzo agli altri. Fammi un altro tentativo, vai Maurizio, un altro tentativo. Io vai. Non voto. Tu non voti, manco niente. Tu voti. Poi chi è che non... Ma cos'è, Regina Celi o niente, un non bar? Votano. Aspetta che ti passo un fascista. Questo qui è nero come il carbone. Si chiama Luciano, è Luciano del Viale Sarga. Ti passo Lutas. Allora Lutas, sei con Parenzo e Cruciani, sei con il Panza e la Marmotta. Che voti? Che voti tu, amico mio, che voti? Io voto sicuramente no, e anche il Panda del mio Interclub. Per forza. Tutti no, mamma mia. Guarda, tutti no, per forza. Arriva, che lavoro fai tu? Che lavoro fai? Il carpentiere, il muratore, che fai? No, noi facciamo amministrazione statica. amministrazione. Mm. Tu spacci sicuro. Sento malissimo, però. Spacci sicuro al 100%. Passami Maurizio, dai, passami Maurizio. Allora, aspetta che ho levato il viva voce, Cucciani, te lo ripasso. Eccomi qua. No, no, ti ho sentito bene. Che c'hai da dire? Voti no, basta. Hai detto che voti no. Vabbè, ripassami Maurizio, dai, ciao. Ti ripasso la Maurizia. Ciao, fai bravo. Maurizia. Oh. La Maurizia che col pompino ti spizia. Vabbè, signori, deve dire queste poesie. Avete l'opportunità di parlare con Parenzo Cruciani. Ci sono le votazioni. Basta, domenica. Basta, sì, Maurizia, no, basta stasera. Chi è questa? No, aspetta, c'è una signora che parla terrone in una maniera incredibile. È meglio dell'apo, cazzo. Che non sa coniugare un verbo, quel coglione. Dai, paradiso. Ma sta minchia a me, non niente a votare, andate a stare in culo. Ma chi sei tu? Ma chi sei? Io ho detto, ma scassa minchia mia. Sentiamo il marito, perché? Invece sono un po' più colto, eh. Buckingham Palace, scaccia la volpe, Oxford. Vai, chi è? Oh, guarda, marito, che voti dimmi. Tu? Che voti io, tu? No, io non voto no. Voti no, pure tu. No, ma no. Ce n'è uno che vota sì in quel cazzo di bar di merda malfamato del cazzo. Non lo so. Babila, questo bar, escludo che sia della zona di San Babila, lo escludo. Tutti no votano, ma che è? Certo. Vabbè, Maurizia, ti saluto, vai, ciao. Bar del carcere. Ciao, Maurizia, ti saluto. Prossimo sondaggio domani, ragazzi, ciao. Sti sondaggi, no? Sapevo facesse anche la sondaggista, la Maurizio Paradiso. Allora, sapevo. Ragazzi, eravamo con Daniela Martani. Cara Daniela, ti voglio segnalare una cosa che ha detto oggi Vissani. Il tuo chef preferito, il signor Vissani, ha detto che i vegani sono una setta. L'aveva già detto. Ha detto anche che lui ha grande successo con le donne. La mia popolarità è a 1000 anche con le ragazze. Intervistato da Repubblica, capito? Ma scusa, ma è vero che ci provava con te? Ma diciamo che mi ha chiesto il numero di telefono. Vabbè, però... ma adesso che c'è? Ha chiesto il numero di telefono, l'ha chiesto, mica ci ha provato. Ma mica è un crimine, dai. Mica è un crimine. Vabbè, non gli ho neanche dato modo. Comunque, insomma, noi siamo una setta, ha detto che ci vorrebbe fare fuori tutti. Se avessimo detto noi una cosa del genere, sarebbe stato. Vabbè, ma eliminare, mica eliminare fisicamente, dai. No, su. No, lui dice di eliminare fisicamente. Come li vuoi eliminare i vegani? Scusami. Come li vuoi fare fuori? Tra l'altro, si deve proprio rassegnare perché non solo noi stiamo aumentando, ma che la coscienza. Aumentando. Stiamo aumentando, però insomma non è un bel esempio dell'onnivorismo Vistani, perché? Insomma, peserà 120 kg, quanto peserà? Ma che non è che è un delitto adesso pesare tanto, 120 kg? No, però insomma non mi sembra così tanto in forma, ecco, quindi... Ti faccio sentire una cosa di martedì di ieri sul cibo e sull'alito, senti, sul cibo, alito, le donne e il sesso, di martedì, sai che sono specializzato in questa cosa, aspetta. Quindi, quali sono gli alimenti consigliati per conquistare l'olfatto di una donna? Via libera il consumo di frutta e verdura e volendo anche dell'aglio, però l'alito non ne risentirà positivamente. Mentre sono vietati la carne rossa, la cipolla e i cavoli, i cavoletti, tutta la famiglia delle brassicacee per i composti solforati che, ahimè, possono impartire un cattivo odore al sudore. Io non ho capito, tu riesci a riconoscere gli uomini, a parte che ormai gli uomini te li sei dimenticati, insomma gli uomini che mangiano la carne, cioè hanno un odore più brutto secondo te? Cioè i carnivori hanno un odore più nefasto? No, questa cosa non l'ho mai notata. Chiaramente ormai praticamente la carne rossa è bandita per qualsiasi, diciamo, per qualsiasi cosa, insomma, anche appunto nell'approccio sessuale, l'approccio fisico con una donna. Cioè, secondo te chi mangia la carne rossa alla fine tromba di meno? Questo è il punto. Ma allora, intanto no, non è che tromba di meno, non è vera questa cosa. Cioè, nel senso, però comunque la mangiare grassi, animali, quindi costruiscono le arterie, insomma, non fa proprio bene. Invece lo sai, Cruciani ti dà una notizia che praticamente i vegani durano di più. No, ma non è uno scherzo, ma però che durano, non so, diciamo, di più, durano di più perché siccome le arterie sono più pulite, no, questa è una cosa, cioè lo potete chiedere a tutti i medici. Cioè l'uomo vegano tromba meglio. Sì, perché il sangue passa più velocemente e passa senza ostruzioni e arriva meglio, diciamo, nel punto dove deve arrivare. Tant'è che infatti moltissimi uomini a certa età non ce la fanno più e devono per forza prendersi il Viagra. Cioè tu dici un vegano il Viagra difficilmente lo prenderà, uno che fa... Sì, esatto. Sì, assolutamente. C'è uno studio scientifico delle famose 5 zone blu del mondo. Io per ora non ho nessun tipo di problema. Ma è pieno di vegani che conosco, di gente vegetariana che prende le pilloline, ma dai. Appunto. Comunque, chi conosci tu di vegano che prende le pillole, sinceramente? Ma ne conosco qualcuno. Tu dici che comunque i vegani... Mercù, ad esempio, ma Mercù ha anche altri problemi. Ma non è vegano. Però usa la pillola blu. Ma non è vegano, però. Però usa la pillola blu. Ma tu una prova, insomma. Comunque, perché non andate a rompere i coglioni, per esempio, ai rom che sgozzano i capretti per strada? A Bari hanno sgozzato i capretti per strada. Perché non andate a rompere i coglioni ai sudamericani, alle gang di sudamericani criminali che fanno le grigliate nei parchi di Milano, giusto, dalla mattina alla sera? Questo è giusto, cioè... Io non sto a Milano, sto a Roma. Sicuramente no, ma quando Milano, avete di fronte i carnivori criminali, avete paura di affrontarli? Questo è il punto. Ma che? Ma figurati, che affrontarli? Ma qua il problema non è il singolo, qua bisogna, è proprio è globale, capisci? È un discorso comunque globale, esistono quindi anche i preti cacciatori, stupendo, qualcuno li vorrebbe scomunicare addirittura. Ci sono 280 preti cacciatori. Beh, allora non hanno recepito comunque insomma, gli insegnamenti di San Francesco, che chiaramente con gli animali si parlava addirittura. Quindi, ma questi insomma, qua vanno a sparare, lasciateli perdere. I cacciatori sono creature di Dio, che sono considerate creature di Dio e non di serie, cioè, D, il prete cacciatore dovrebbe essere cacciato dalla chiesa, secondo quello me. È strano, assolutamente, dai. Sì, assolutamente sì, ma calci proprio nel sedere, cioè, no, ma che a calci nel sedere? Assolutamente sì, ma i cacciatori, c'è pure ho scoperto che c'è una donna che è una grande cacciatrice di cinghiali, la devo intervistare, una donna cacciatrice di cinghiali, numero vabbè, uno, sì. Numero poraccia. Uno assoluto. Poraccia, per me è una sfigata, chiaramente. Ma che sfigata, dai. Ma tu vuoi che muoiano? Ma tu vuoi che muoiano i cacciatori? Ti auguri che muoiano? Dai, ma su. Io non auguro la morte a nessuno, ma chi va a sparare, a uccidere esseri innocenti, capito? Per divertimento. Se poi crepa, però la caccia alla volpe è bellissima nelle tenute della regina d'Inghilterra. Se poi crepa, se ma poi crepa, dicendo, Parenzo, no, la caccia alla volpe rimane comunque affascinante. Se crepa un cacciatore, tu, se crepa un cacciatore, che cosa provi? Dimmi la verità. A me non me ne frega niente, se gli succede qualche cosa, se l'è andata a cercare, capito? Quindi, ma che se l'è andata a cercare? È andata a fare una battuta di caccia, è successo perché l'incidente, poveraccio, la dai. Cosa che ti volevo dire prima. Uno di meno, dici, uno di meno, uno di meno. Abbi il coraggio di dire uno di meno, uno di meno. Uno di meno, la caccia aperta, ma che vergogna. Quella che ti stavo dicendo prima, la caccia aperta. Ma che caccia aperta? Ma nessuno la vuole fare, dai. Anche per le persone che non vanno a caccia, se tu ti vuoi andare a fare una passeggiata. Ma uno di meno si diceva col terrorismo, si diceva. Rischi di prenderti da pistoletta. Un colpo in testa, perché ci stanno questi che sparano all'impazzata. Fermo, Massimo da Roma, ciao Daniele. Massimo da Roma, Massimo da Roma. Chi è Massimo? Che vuoi? Luciani, buonasera. Dimmi Massimo, dimmi. Grazie per aver contattato Richard Benson. Ma questo è successo la settimana scorsa. Poi oggi abbiamo replicato con la moglie. Che è successo? Richard Benson, io ho 50 anni, sono un musicista. Che è successo? Negli anni 80 conduceva un programma su TVA. Sì, TVA. Che si chiamava Ottava Nota. Sì, sì, lo sappiamo. E io sappiamo lo voglio ringraziare perché ha fatto conoscere a una marea di musicisti tantissimi gruppi. È una persona di una cultura smisurata. Beh, capito, però è ridotto male adesso. È ridotto male. Daniele, Napoli, vai, Daniele. Chiudere. Ciao, Daniele. Basta. Puoi levare sta cazzo di zanzara di merda? Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, quando ritorno a casa, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Siamo ad alti livelli qua, Radio 24, libera la voglia di fare.